Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il documento di economia e finanza presentato lo scorso 11 aprile dal governo torna a riproporre il tema fondamentale per il nostro paese delle possibili strade per ridurre il debito pubblico, un debito che è in crescita da oltre un decennio e che dovrebbe attestarsi quest'anno al 132,5% del PIL contro il 132,6% dello scorso anno. Per capirne di più, dobbiamo fare un passo indietro e spingerci almeno fino agli anni 70 del secolo scorso, a partire dal primo shock petrolifero del 1973 e per oltre un decennio la crescita del fabbisogno pubblico non conosce sosta, aumentando dal 6% dei primi anni 70 al 14% del 1985. E il debito pubblico, che nel 73 era pari al 55,4% del PIL, passa 10 anni dopo all'84,2%. Sul banco degli imputati è la spesa pubblica. Aumentare le spese per far fronte alla crisi originata dall'alta inflazione e per finanziare le spese crescenti del welfare, e farlo senza aumentare contestualmente la pressione fiscale e tagliare le spese improduttive, si traduce sostanzialmente in un costante finanziamento in deficit, con il conto che viene rinviato alle generazioni successive. La spesa pubblica passa così in rapporto al PIL dal 29% del 1960 al 42% del 1980, per raggiungere il 53,5% nel 1990. Di contro, le entrate passano dal 30,9% del 60 al 32,1% del 70 e al 36,5% del 1980. Lo squilibrio tra entrate e uscite provoca l'inevitabile impennata del deficit, che sale dall'1,1% del 1969 al 10,2% del 79. Se si guarda le serie storiche, escludendo i due conflitti mondiali, solo negli anni 30 del Novecento la spesa pubblica era cresciuta a ritmi simili a quelli degli anni 70. Con un'eredità così ingombrante arrivano gli anni 80 e si completa il quadro. Il debito del settore pubblico, che nel 1982 ammonta al 66,4% del PIL, alla fine del 1992 si attesta al 110,8%. Il conto viene presentato al Paese nel 1992 dal governo Amato, nell'anno che vede il tracollo dell'economia e la momentanea sospensione della lira dal sistema di cambi allora in vigore. Preceduta dalla manovra del 10 luglio, quella per intenderci del prelievo forzoso del 6 per 1000 sui conti correnti, arriva in settembre la maxi stangata da 93.000 miliardi delle vecchie lire. Nel 1994, governi Ciampi e Berlusconi, il debito è al 121,5%. A fasi di contenimento si alternano nuove impennate. La discesa del debito sembra garantita dal consistente avanzo primario realizzato da Ciampi, 5,5% del PIL, nel biennio della rincorsa alla moneta unica. Dal 2004 la discesa si interrompe. Abbiamo in linea il professore Andrea Boitani, docente di economia politica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autore del volume pubblicato dalla Terza, di cui abbiamo già parlato qui a Radio 24, dal titolo Sette luoghi comuni sull'economia. Buonasera professore e bentornato. Buonasera. Uno dei luoghi comuni che lei propone nel libro è proprio riguarda proprio il debito. Si dice: se il debito pubblico è alto ci vuole l'austerità. Ma non è proprio così, professore? No, diciamo che soprattutto quando si ha la coincidenza di debito pubblico alto e di fase recessiva, allora la ricetta non può essere quella dell'austerità, nel senso che quello è il momento in cui è necessario fare della spesa pubblica anche in deficit e quindi aumentare temporaneamente anche il debito pubblico per far ripartire l'economia. Dalla ripartenza dell'economia si otterrà poi una progressiva riduzione del rapporto tra debito e PIL, perché aumenta il denominatore più di quanto stia aumentando il numeratore, cioè il debito. Questo non significa naturalmente che non vale mai l'idea che ci voglia austerità. austerità in presenza di debito pubblico alto. Se un'economia, per esempio, è in una fase espansiva, allora in presenza di debito pubblico alto l'austerità è raccomandabile e anzi necessaria, perché svolge sia la funzione di stabilizzazione ciclica sia la funzione appunto di contribuire alla riduzione del rapporto tra debito e PIL grazie a una riduzione del numeratore in questo caso. Quindi le ricette sono diverse a seconda della situazione, non si può appunto dire semplicemente che se il debito pubblico è alto ci vuole l'austerità. Certo. Naturalmente non si può neanche dire che se il debito pubblico è alto bisogna spendere comunque di più. Sì. Dipende dalla situazione in cui l'economia si trova, cioè dalla fase ciclica in cui l'economia si trova. A proposito di ricette per ridurre il debito pubblico, da tempo viene evocato il tema delle privatizzazioni. Dopo le privatizzazioni degli anni, per la verità, 90, adesso non si sa bene a quanto possano aumentare e che tipo di contributo possono dare alla riduzione del debito. Ma guardi, innanzitutto dai conti che vengono fuori, le privatizzazioni contribuiscono in misura limitata alla riduzione del debito e naturalmente solo nella misura in cui i proventi da privatizzazioni vengano destinati interamente alla riduzione del debito, come prevedeva una vecchia legge spaventa degli anni 90 all'epoca del governo Ciampi. Inoltre c'è un'altra cosa che va detta: le privatizzazioni hanno un obiettivo primario, che è quello di rendere più efficiente la struttura industriale del paese, con particolare riferimento ai servizi, servizi di pubblica utilità e in generale altri tipi di servizi, e quindi le privatizzazioni devono essere accompagnate da una liberalizzazione dei mercati. Certo. E da una loro regolazione in funzione dell'efficienza. Sì. Naturalmente se questo è l'obiettivo principale delle privatizzazioni, l'effetto sul debito può essere ridotto. Per quale ragione? Che in questo caso la vendita delle aziende pubbliche non corrisponde alla vendita di aziende monopoliste, ma di aziende che operano in un mercato concorrenziale o in un mercato regolato, come se fosse concorrenziale. Naturalmente il valore per chi acquista di aziende di questo genere, fortemente regolate o operanti in regime concorrenziale, è inferiore a quello di aziende monopoliste e quindi l'incasso per lo Stato che vende è inferiore. Certo. Dobbiamo chiederci a questo punto, dobbiamo dare un obiettivo primario di riduzione del debito alle privatizzazioni o un obiettivo di efficienza strutturale del sistema? Se la risposta è la seconda, l'effetto sul debito può essere ridotto e probabilmente le privatizzazioni vanno fatte in maniera diversa che non se diamo risposta positiva al primo quesito, al fatto che le privatizzazioni abbiano come scopo la riduzione del debito. Allora, tra le possibili ricette, stiamo parlando di questo per ridurre il debito, nel dibattito politico e anche economico di questi anni molto spesso viene evocato il tema della strada europea cosiddetta per ridurre il debito, ad esempio strumenti di mutualizzazione del debito. Ecco, ma lei ritiene ad esempio che il ricorso a possibili strumenti come gli eurobonds, che peraltro mi sembrano scomparsi nel dibattito europeo, possano ritornare in qualche modo utili per affrontare il tema? Ma io credo che gli strumenti di mutualizzazione del debito possano essere considerati solo nell'ambito di una visione un pochino più ampia. Non possiamo chiedere all'Europa di intervenire per sollevarci da una parte del debito, visto che i debitori più grossi siamo noi in Europa. Il debito greco ovviamente è molto più alto del nostro in rapporto al PIL, ma in valore assoluto è un debito assai più inferiore, essendo la Grecia un paese piccolo relativamente all'Italia. Quindi francamente io non vedo con grande favore la possibilità di arrivare agli Eurobonds senza che nel frattempo si sia messa in piedi una struttura di bilancio e soprattutto una dimensione di bilancio comune europeo, o quantomeno, come io dico da tempo, dell'Eurozona. In quel contesto si può anche, diciamo, procedere a una mutualizzazione del debito, ma in quel contesto i singoli paesi, e quindi a cominciare dall'Italia naturalmente, perdono una parte del controllo sulla finanza pubblica, perché tanto le entrate quanto le uscite andrebbero direttamente a Bruxelles. Certo. E quindi sulle spese e così anche sulle entrate sarebbe direttamente il governo dell'Eurozona, diciamo così, a decidere, con una riduzione della sovranità, tra virgolette, dei singoli paesi, cosa alla quale temo l'Italia, così come con ogni probabilità la Francia, soprattutto qualora dovesse vincere le elezioni Marine Le Pen, sarebbe disponibile a procedere. Bene, quindi sì, certo. Eurobonds sì, ma legati all'interno di un bilancio europeo. Di un bilancio europeo e soprattutto di un'Europa che finalmente metta al centro, posso aggiungere io, il tema della crescita, degli investimenti e del sostegno all'occupazione. Grazie professor Boitani per essere stato con noi, le auguriamo buona serata. Buona serata a voi.